Tornavo ora ora di una visita all'ume pagione di casa, il solitario vicino di cui assubiri la presenza. Splendida regione, chista, un crio che in tutta l'Inghilterra avessi potuto trovare in una zona così lontana dell'ufrastrono dell'umana società. Un autentico paradiso più misantropo.